A letto, tasso. Radio Wombat. Da sempre e obiettivamente la migliore. Allora, buonasera a tutti e tutte, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Wombat. Questo è Briccobaldo che vi parla dalla nuova Tana Bombata. Nuova Tana Bombata che, così come in altre occasioni, si è dislocata a giro per la città, se non per il mondo, per fronteggiare l'emergenza. State a casa, noi ci restiamo. Ma continuiamo a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, senza problemi e senza paura. Yeah, State ascoltando quella che dovrebbe essere La Trapunta. La Trapunta è un programma che cerca di promuovere e approfondire eventi che si svolgono negli spazi liberati a partire da una piattaforma, lapunta.org, che serve apposta per questo. Se provate ad andare sulla punta.org non troverete niente, perché purtroppo abbiamo avuto dei problemi, ma scusate, casca a fagiolo, perché comunque con le ultime indicazioni sicuramente gli eventi non si sarebbero potuti tenere, e infatti non ci sono, non c'è alcun evento da pubblicizzare, e quindi io sono in ritardo, ma in verità dovrei essere meno in ritardo di quello che sono, perché ho fatto circa una mezz'ora di diretta senza rendermi conto che in verità non stavo andando in diretta. E vabbè, succede, ragazzi. Comunque siamo qua su Radio Wombat. Vi ricordo cose che potete scriverci all'indirizzo mail postawombat@insiberia.net. È qui aperto davanti a me, potete interagire in tempo reale con quello che sto dicendo, e potete infamarmi se volete, potete scrivermi, darmi suggerimenti, mandare contributi, soprattutto mandare contributi. Quello che sentirete fra poco non sono altro che un sacco di contributi che arrivano un po' da tutte le parti, non solo d'Italia ma anche d'Europa, perché è una situazione che sta colpendo la pandemia, proprio dal terra, sta colpendo tutto il mondo. Abbiamo già fatto qualche approfondimento su questo. Sabato scorso c'ero io nella diretta che tutti i giorni, diretta speciale che tutti i giorni si tiene dalle 19 alle 21. C'ero io, abbiamo un po' letto qualche articolo, sentito qualche voce, fondamentalmente per avere un minimo di approccio critico su un'emergenza e sui provvedimenti che sono stati presi per questa emergenza, che vedono privazioni enormi della libertà di ognuno di noi, magari giustamente. Però c'è anche chi dice che proprio non è così. Comunque sentiremo voci intanto a partire da Firenze, una lavoratrice in un ospedale di Firenze, poi un'intervista raccolta dall'Assemblea di Resistenze di un lavoratore del San Raffaele di Milano, e poi avremo anche un paio di contributi dall'estero, in particolare da Edimburgo, dalla Scozia. Sono italiani che vivono lassù e stanno passando momenti di difficoltà, sia per quello che sta succedendo in Italia, sia per quello che sta oppure non sta succedendo in Gran Bretagna. Gli approcci sono molto diversi, chissà, vediamo. Poi in Inghilterra ha sempre teso a farsi i cazzi suoi, ma ora Brexit, non Brexit, ancora di più. Quello in sottofondo è Radio Pusherman, anche lui sono contributi inviatici dall'estero, se non mi sbaglio, dall'Irlanda. Grazie Pusherman, ne facciamo buon uso. Il tema è quello del lavoro, naturalmente, abbiamo, come ho accennato, avremo interviste dei lavoratori non solo nel settore della sanità, avremo anche un intervento di un rider che ha una voce nota su Radio Wombat, che attualmente si trova a Torino, ci spiegherà bene che cosa sta succedendo. Un suggerimento è sicuramente quello di seguire l'hashtag Fabbriche in Lotta, perché si stanno susseguendo gli scioperi nei vari settori produttivi di lavoratori che non sono disposti a rischiare la salute per mantenere una produttività anche in tempi di crisi sanitaria e di pandemia. Questo poi naturalmente va declinato in ogni settore, sicuramente le difficoltà che vivono nelle fabbriche sono differenti rispetto a quelle che vivono invece per le strade oppure negli ospedali, ma sicuramente è una situazione che pone tutti e tutte sotto fortissimo stress. Un piccolo aggiornamento lo possiamo cercare dalla pagina della Protezione Civile, la mappa della situazione. Vediamo un po' che cosa sta succedendo, c'hanno il conto preciso dei contagi e questo magari ci aiuterà un po' a capire bene anche la differenza, sentiremo nelle interviste le differenze di opinioni tra il lavoratore lombardo e invece la lavoratrice toscana di Firenze. Allora, questo sito del Dipartimento della Protezione Civile non carica bene, non ci si capisce assolutamente niente, però l'andamento nazionale dei grafici sembra in crescita, sì, assolutamente attualmente positivo, da 23.073 contagiati, soprattutto naturalmente nell'area della Lombardia, Lombardia, bassa Lombardia, alta Emilia Romagna e anche naturalmente il Piemonte. Vi sono in Toscana 164 casi, se non mi sbaglio. Queste mappe sono veramente veramente fatte male. Vediamo un attimo se zoomando si riesce. Ok, allora la Toscana ci sono 866 casi accertati, in Emilia Romagna sono 3.522, in Liguria sono 667, la Lombardia fa la maggior parte, quindi 14.649, il Piemonte a 1.516, il Veneto addirittura 2.473, qualche caso è sbucato anche in Trentino, nella provincia di Trento sono 378, nell'Alto Adige 241, il Friuli 386. Spiccano le Marche con 1.242 casi, l'Umbria invece è un po', per fortuna, si è preservata. Più di 500 in Lazio, 400 contagiati in Campania, qualcosa in Sardegna, sono 107, 213 in Sicilia, circa 89 in Calabria, in Puglia sono 230 e solo 12 in Basilicata e 21 in Molise. Come... Esatto, sì, queste sono le statistiche. Se voi andate sul sito della Protezione Civile trovate tutti i dettagli. 27.980 i contagiati in Italia. E questa epidemia non accenna assolutamente a diminuire. Quindi dunque, tornando a noi, abbiamo i contributi, quindi io ve li faccio sentire. Sto parlando con Elena, un'infermiera, lavora presso l'ospedale di Santa Maria Nuova in centro Firenze. Intanto ciao, come stai? Ciao, mamma, abbastanza bene, dai, abbastanza bene. Come state gestendo questa emergenza sanitaria a Santa Maria Nuova? Allora, praticamente ora stanno riorganizzando, diciamo, tutto l'ospedale, sono state chiuse due medicine e le stanno, diciamo, riorganizzando. Una probabilmente per una terapia intensiva dedicata appunto ai pazienti affetti da Covid, e un'altra per pazienti un po' più stabili che comunque hanno bisogno di terapia come ossigeno e la terapia antivirale, insomma, hanno bisogno di essere un po' monitorizzati, ecco. Ci sono stati molti accessi per Covid-19? Ma per ora la medicina B, che è dedicata appunto ai pazienti con Covid, ce ne sono più o meno 10, più 2 in terapia intensiva, mi sembra. Però appunto ne prevederanno dei nuovi ingressi e quindi ecco, stanno riorganizzando tutto. Ok, i reparti che erano medicine, che sono diventate terapie, insomma, per l'emergenza? Sì, probabilmente ancora deve essere tutto deciso, insomma, però probabilmente si diventerà una terapia subintensiva e un'altra, insomma, dove i pazienti sono un po' più stabili, ecco. Però ancora non è deciso niente, insomma, è tutto in divenire al momento, a seconda delle necessità, ecco. Ok. Dunque, voi infermieri immagino che siete sottoposti a un carico di lavoro più grosso rispetto al normale. Vorrei sapere un po' come sono stati organizzati sia i turni sia la distribuzione di presidi per la sicurezza e se anche vi sono dei contagi nel personale sanitario. Allora, per il momento contagi del personale no. I dispositivi per ora ci sono, abbiamo, diciamo, tutti i dispositivi di sicurezza, però non sono magari sufficienti se dovessero arrivare, ecco, nuovi pazienti e il tipo di lavoro forse dovrebbe aumentare. E, per ora però ne abbiamo, siamo sicuri al momento. Almeno io, insomma, mi sento sicura, c'è i dispositivi, lavoro in sicurezza per il momento. E il carico di lavoro, allora, noi è rimasto più o meno uguale perché è stato proprio distribuito, sono stati chiusi delle parti, quindi sono stati riorganizzati gli infermieri. E come carico di lavoro, quanto riguarda gli infermieri standard, insomma, non è cambiato molto, ecco. Per questo motivo, perché okay. Sono stati ridistribuiti in tutti i reparti e poi ci sono state nuove assunzioni, visto che c'è stato il concorso fine anno, e quindi stanno assumendo tantissimi infermieri, sì, ecco. Proprio per questa emergenza. Ecco, stanno già assumendo a tempo indeterminato, oppure come hanno fatto a Careggi, che hanno assunto 60 lavoratori per un periodo di 120 giorni, che tu sappia? Ma allora, ce ne sono alcuni che sono assunti con interinale, con un'agenzia interinale, altri invece proprio presi dal concorso, insomma, quindi a tempo indeterminato. E quindi ora stiamo facendo in questi giorni l'affiancamento per poi essere inseriti. Okay. Pensate di essere preparati per accesso di grandi flussi di persone infette? Questo non lo so perché comunque i numeri non sono limitati. L'ospedale di Santa Maria Nova è un ospedale piccolo e quindi noi, come posti letto in medicina B, ne abbiamo una decina. E medicina A, che diventerà appunto sempre il reparto Covid, ne ha altrettanti, quindi insomma come numeri, proprio perché è piccolino comunque l'ospedale. A ecco, qualche po', insomma. L'impressione da parte di una persona, nel caso te, che lavora dall'interno, come ti sembra che questa situazione sia gestita? Se potrebbe essere gestita meglio, se invece è gestita bene? Dici un po' le allora, per il mio punto di vista, ma stanno gestendo al meglio delle possibilità la situazione, perché comunque è stata una cosa improvvisa, si sono dovuti riorganizzare completamente, stravolgendo tutto l'assetto dell'ospedale, quindi formando noi infermieri per la vestizione, la svestizione, la gestione dei caschi per la respirazione, insomma, quindi comunque le formazioni sono state, stanno facendo veramente il meglio che possono nel breve tempo che è stato disponibile, insomma, quindi secondo me stanno facendo al meglio, stanno facendo un buon lavoro e, okay. E vediamo come bene. Va bene, allora bene, grazie mille e buon lavoro. Di niente, grazie mille, grazie. Grazie a voi. 1, 2, 3, 4. La trapunta, lotte, culture e autogestione. Appuntamenti irresistibili dalla punta.org. In diretta ogni lunedì alle 16.30, con repliche il martedì alla stessa ora e il giovedì alle 13, naturalmente su Radio Wombat. Quel che di bello c'è in città lo trovi sulla punta. Allora, mi è riuscito di capire qualcosa sul sito della Protezione Civile. Vi aggiorno i contagiati totali 27.980, quelli attuali, ne sono guariti 2.749, quelli attuali quindi sono 23.073. Fino ad oggi ci sono 2.158 i decessi. I vari grafici, l'andamento nazionale è una curva che si impenna. L'incremento giornaliero degli attualmente positivi, anch'essa all'incirca si impenna, abbiamo visto un lieve calo in data di oggi, attualmente positivi sono i nuovi attualmente positivi sono 2470, ieri erano 2853, ieri l'altro 2795 e invece il 13 di marzo erano 2100. Il picco dei nuovi casi è stato raggiunto ieri, almeno fino ad oggi. Non si può sapere come andrà a finire. Questo, ripeto, cioè, abbiamo sentito l'intervista di una lavoratrice di Santa Maria Nuova, sentiremo fra poco quella di un compagno del San Raffaele di Milano. La situazione è molto diversa, però d'altronde anche il numero dei contagiati in Lombardia è di circa 15.000 persone, mentre quello della Toscana siamo a neanche a 900, quindi è comprensibile che si vivano condizioni diverse. Il Sud Italia, chi lo sa, questo è mammagramma, ve lo faccio sentire un po' prima di andare a sentire l'intervista al compagno di San Raffaele. Intervista a un lavoratore del San Raffaele di Milano, dell'USI Sanità. Potresti descrivere quali sono le condizioni di lavoro, i ritmi dei turni, i rischi a cui siete sottoposti negli ospedali di Milano in questi giorni? Premetto che io lavoro all'ospedale San Raffaele. Credo, anche per alcuni contatti con i compagni di altri ospedali, che la situazione, sfumature a parte, sia simile ovunque. L'emergenza, anche se era prevedibile, ha colto tutti impreparati. Ad esempio non ci sono scorte adeguate di dispositivi di protezione individuali, DPI. Avviene che gli operatori sanitari sono costretti a lavorare senza ricambio adeguato di mascherine e con protezioni insufficienti, con il risultato che sempre più medici e sanitari si infettano e rischiano di infettare i pazienti e i propri familiari. Il personale sanitario è allo stremo, distrutto fisicamente e mentalmente, si registra l'uso di farmaci per poter dormire qualche ora tra un turno massacrante e quello successivo, quando i pensieri non riescono a staccarsi da quanto vissuto. I rischi sono tanti, aumentati dal numero limitato di DPI, ma va sottolineato che la totalità degli operatori, siano essi medici, infermieri, tecnici, personale di supporto, amministrativi e tutte le altre professioni che necessitano in un ospedale, ritengono di dover fare la propria parte. Dicevo all'inizio della risposta che l'emergenza ha colto tutti impreparati. In realtà, se pensiamo ai tagli registrati nella sanità negli ultimi anni, almeno 37 miliardi di euro, ovvero 43.000 lavoratori, con conseguente soppressione di 70.000 posti letto, di cui 3.000 di terapia intensiva, si potrebbe dire che sono anni che ci si prepara scientificamente ad essere impreparati ad affrontare un'emergenza sanitaria come l'attuale. Cosa pensi della retorica sull'eroismo dei lavoratori della sanità che i giornali e politici stanno costruendo da giorni? Mi verrebbe da dire lasciamo stare. I lavoratori della sanità hanno visto i rinnovi contrattuali con notevole ritardo e penalizzanti. Al momento non c'è uno solo dei vari contratti applicati nella sanità che non sia scaduto. Le riduzioni d'organico sono state la regola. Abbiamo rappresentato un costo, una voce da tagliare costantemente. Detta dai politici di turno, la trovo funzionale a nascondere la situazione della sanità, che, ripeto, è stata voluta e determinata. Se gli operatori della sanità sono eroi, è chiaro che la situazione è eccezionale. La realtà è che una sanità migliore avrebbe affrontato meglio l'epidemia e sicuramente avrebbe evitato il rischio di essere a loro volta causa di diffusione del virus, come dicevo prima. Fino a un minuto prima dell'esplosione dell'epidemia, ogni qualunque brunetta pensava di poter definire i lavoratori della sanità, come del resto del pubblico impiego, come fannulloni dal cartellino facile, furbetti che rubano lo stipendio ad altri. E altri epiteti vari. Chiunque dicesse ciò ha sempre trovato largo consenso. Come USI Sanità, assieme a diverse organizzazioni del sindacalismo di base, sono anni che denunciamo la deriva della sanità pubblica. Siamo stati inascoltati non solo dai vari governi e politici, ma anche dal grosso della popolazione. Se la politica è la responsabile principale della devastazione della sanità, dobbiamo dire che ha goduto di grande tolleranza quando non vera complicità. Non ci sono eroi in sanità. Ci sono lavoratori che sono stati maltrattati dai governi e spesso anche dall'utenza. Quali pensi che possano essere le conseguenze di queste settimane, con i suoi ritmi di lavoro, con le condizioni in cui lavorate, sui diritti del lavoratore negli ospedali una volta terminata la crisi? Difficile da dirsi, siamo tutti soggetti a un forte stress, quando non un vero e proprio trauma. I vissuti attuali non saranno facilmente dimenticati. Sarà necessario per ognuno rielaborare questa esperienza e questo trauma avrà necessità di tempo per essere superato. Sui diritti, temo che una volta terminata la crisi si tornerà a segnare il passo, spariranno gli eroi e torneranno i fancazzisti. Sarebbe auspicabile che tutti si rendessero conto di quanto invece è fondamentale per tutti un buon sistema sanitario e si mobilitassero per far sì che la prossima epidemia non ci trovi nella medesima situazione dell'attuale. In quanto compagno anarcosindacalista, come pensi si debba reagire alla situazione attuale? Il domandone finale non è certamente facile. Non ho una soluzione immediata in tasca. Come ti dicevo all'inizio, io lavoro all'ospedale San Raffaele. La direzione ci aveva comunicato che dal 1° aprile non sarebbe più stato applicato il CCNL attualmente utilizzato. CCNL Sanità Pubblica, compatibilizzato con la natura privatistica dell'ospedale. Noi avevamo proclamato uno sciopero per il giorno 27 febbraio. Subito dopo la scoperta dei primi casi di coronavirus, però, abbiamo deciso di sospendere lo sciopero. In questo supportati dai colleghi che immediatamente si sono resi conto che stava partendo un'emergenza. Abbiamo informato gli enti preposti della sospensione dello sciopero e abbiamo chiesto all'azienda di fare altrettanto, cioè di rimandare la loro decisione ad emergenza finita. Credi che dal 24 febbraio abbiamo ricevuto una risposta? Saremo eroi, ma un'epidemia va bene per portarsi a casa una modifica, ovviamente in peggio per i lavoratori, del CCNL applicato senza colpo ferire. Ci tengo a sottolineare che la nostra comunicazione è antecedente alle indicazioni della Commissione di garanzia che sospende gli scioperi nei servizi pubblici essenziali fino al 31 marzo. In questo momento non è possibile nessuna azione. Sono vietati gli scioperi, riunioni, assembramenti, ma anche non lo fossero, i colleghi hanno chiaro che la priorità è fare al meglio il proprio lavoro. I lavoratori dell'OSR hanno dimostrato un'etica che a quanto sembra non serve per possedere quell'ospedale. Comunque l'emergenza finirà, dovremo tornare a lottare, non mi aspetto nessuna concessione né alcun cambio di rotta nella devastazione della sanità. Dovremo tornare nelle piazze, magari stavolta saremo solo in più larga compagnia. La tatuata bella al lavoro non ci va. Ha messo la camicia ma al lavoro non ci va. Quello che vuole altro, altro da questa vita. A consumar le dita per gli altri non ci sta. Padrone, mostra il muso, vediamo come sei. Padrone, mostra il muso, che lingua parlerai. Da dove arriverai a cercar profitto? Sta certo che il mio tempo stavolta non l'avrai. se lavori duro, un motivo ci sarà. E se lavori duro, un motivo ci sarà. Che schiavo del lavoro, che schiavo del lavoro, o solo del pensiero, che senza non si può. Ti dico che non vengo a lavorare, non vengo, starò con la mia bella sul prato a far lavoro. Padrona mia è la luna e altro io non ho. E non avrò paura, e non avrò paura. Padrona mia è la luna e altro io non ho. Torno in regia dopo aver sentito i tre allegri ragazzi morti. Io al lavoro non ci vado. Io resto a casa, oppure, come diceva qualcuno su Radio Wombat, io sto nel campo. Io sto nel campo, effettivamente sto attrezzando un orto. Non si sa mai di questi tempi, sempre bene avere una piccola riserva in vista dell'apocalisse che ci attende. Non solo un orto, ci vorrebbe anche qualche salame attaccato in cantina. Beh, comunque avete potuto sentire un po' la differenza di vedute tra il lavoratore del Lombardo e la lavoratrice fiorentina, e appunto differenza ben spiegata, appunto, come dicevo, dai dati diffusi, tramati dalla Protezione Civile italiana. Non si ferma qua, abbiamo un sacco di contributi ancora, proprio anche su alcuni temi accennati dal lavoratore Lombardo, questa sanità che negli ultimi anni è stata via via mangiata a morsi da chi governa, con tagli su tagli, il tutto poi a favore della sanità privata convenzionata. Sanità privata convenzionata che ha visto il mercato crescere notevolmente e ne ha approfittato. Lui citava, e io mi unisco alla sua voce, citava in particolare la questione delle assicurazioni sanitarie integrative, che hanno realmente deviato proprio le persone nella sanità privata. Perché? Qual è il meccanismo? Quando te lavori, ogni lavoratore con un contratto ha diritto a un'assistenza sanitaria integrativa che viene in parte pagata dal lavoratore, in parte pagata dall'azienda. Una volta stipulata questa, è una sorta di assicurazione, questa assicurazione te hai la possibilità di accedere a tutta una serie di servizi presso dei centri convenzionati. I servizi vanno dagli interventi di chirurgia fino agli interventi di odontoiatria. E quindi naturalmente dice, vabbè, ho capito, ma uno può comunque andare nella sanità pubblica. Sì, è vero, peccato che comunque nella sanità pubblica c'hai i ticket, uno, che sono sempre più cari, le liste d'attesa, due, che sono sempre più lunghe, e quindi la scelta è abbastanza facile, no? Voi dite. Dunque, adesso in programma c'è un'intervista a Gavino Maciocco, però prima vorrei ricordarvi a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono in ascolto e io posso vedere anche quanti sono, si tratta di quasi una quindicina di persone. Vi raccomando di scrivere a postawombat@insiberia.net perché sono solo anch'io, anche se poi punto a farvi compagnia, però considerate che anch'io sono solo e ho bisogno di un po' di interazione e quindi chiunque può scrivermi suggerimenti, qualsiasi cosa, linkare roba, cazzate, qualsiasi cosa è ben accetta. Nel frattempo, dicevo, un'intervista a Gavino Maciocco. Gavino Maciocco è stato un docente dell'Università di Firenze, è un igienista, si occupa appunto di igiene e sanità pubblica. Si può dire non solo che si occupa di igiene e sanità pubblica, ma è stato un po' uno dei guru, non solo a livello italiano, ma anche a livello internazionale, di questo settore della medicina. L'igiene e la sanità pubblica è quella che si occupa proprio di prevenzione, in particolare prevenzione in tutti gli ambiti e anche dello sviluppo dei vaccini, quindi chi meglio di lui. Tra l'altro è una persona che ha lavorato molto all'estero, ha lavorato molto soprattutto in Africa e pensate, è anche una storia che vabbè non ve la racconto, però è una persona insomma di rilievo e la sua opinione sicuramente è da tenere in considerazione. Abbiamo un'intervista anch'essa fatta da Resistenze ok, qualcuno mi scrive qualsiasi cosa. va bene anche qualsiasi cosa. Non c'è problema. Per l'appunto... Allora, per l'appunto io non riesco, lo dico a tutti e a tutte chi mi scrive i messaggi, non riesco a vedere chi è, quindi vi prego di firmarvi nei messaggi perché ho cambiato telefono e la scheda l'ho messa sul telefono che uso per fare la regia e quindi questo telefono qua mancano alcuni numeri e non riesco a riconoscervi, quindi firmatevi e comunque sì, qualsiasi cosa, dice un ascoltatore o un'ascoltatrice. Nel frattempo io vi mando Gavino Maciocco, così intanto la bozziamo di dire cazzate, perché l'argomento tutto sommato è serio. Siamo con il professor Gavino Maciocco, professore di igiene e di sanità pubblica, col quale ci interroghiamo rispetto alla situazione del sistema sanitario nazionale di fronte a questa emergenza, ma facciamo qualche passo indietro e parliamo di come si è trasformato, di come è cambiato il nostro sistema sanitario in questi ultimi 10 anni. Buongiorno, professor Maciocco. Buongiorno a voi e grazie per avermi chiamato, perché mi fa molto piacere condividere con voi queste riflessioni. Allora, se noi dovessimo fissare una data dopo la quale il sistema sanitario italiano ha iniziato una lenta discesa verso l'abisso in cui ora si trova a causa anche degli eventi che tutti noi conosciamo, questa data è il 2011, quando a causa delle politiche di austerità furono adottate una serie di provvedimenti che andavano, diciamo, a ridurre il finanziamento del sistema sanitario italiano. Quindi si partì con l'aumento altissimo del ticket, con il blocco del turnover del personale che andava in pensione e quindi progressivamente negli anni noi abbiamo avuto una costante, quello che si chiama definanziamento del sistema sanitario rispetto alle sue necessità. E le necessità erano molto alte perché da una parte c'era una popolazione italiana che, come noi sappiamo, è una popolazione con una alta percentuale di anziani e quindi con persone che richiedono maggiore assistenza a causa delle maggiori patologie e in parte anche dovuta al fatto che quando una popolazione si impoverisce ha bisogno di più servizi e di più reti di protezione. Invece

E torniamo dal vivo con la voce di Bricobaldo. Ricordo a tutti e tutte, state ascoltando Radio Wombat. Radio Wombat la trovate sul blog, ci siete già, visto che ci state ascoltando, ci accedete anche attraverso streampunk.cc. Potete ascoltarci sull'app per Android che scaricate dalla finestra dello streaming. Ecco, la mail alla quale scrivere è postawombat@insiberia.net. Abbiamo sentito Gavino Maciocco e continueremo a parlare tendenzialmente di sanità pubblica. Abbiamo due contributi che arrivano dall'estero, dalla Scozia per l'esattezza, da italiani che vivono in Scozia. Uno è Carlo Pirozzi, lo sentiremo fra pochissimo, e ci raccontano un po' quello che sta succedendo in Gran Bretagna. Grande confusione, le dichiarazioni di Boris Johnson hanno fatto scalpore e i giornali titolano: abituatevi a perdere i vostri cari, dobbiamo farci l'immunità di gregge. E vabbè, che vi devo dire, questo è quello che un po' i politici ci abituano a sentire, queste grandi vociate populiste, quindi non lo so, teniamole in considerazione parzialmente, poi magari andremo un attimo a approfondire. Ottima la fonte che ha citato Gavino Maciocco, quella di Salute Internazionale, dopo andremo a vedere, a dare un occhio ad un articolo proprio di Gavino Maciocco che è uscito prima della pandemia, no? Dell'esplosione della pandemia. È un articolo del 7 gennaio 2020 che fa un po' uno screening dello stato della sanità pubblica in Gran Bretagna e anche dello stato delle cazzate che i leader politici sparano e hanno sparato, soprattutto nel grande fermento della Brexit. E quindi io vi lascio un po' in sottofondo con i Rolling Stones e poi a un certo punto sentirete partire l'intervista. Buongiorno da Edimburgo, mi chiamo Carlo Pirozzi, insegno lingua e letteratura italiana all'Università di Edimburgo e sono un membro Comites, quindi il Comites è un organo di rappresentanza degli italiani all'estero e quindi sono rappresentante del Comites Scozia, Irlanda del Nord. Posso raccontare un po' da italiano che vive Edimburgo e anche raccogliendo email o diciamo reazioni da parte dei nostri connazionali. Ovviamente dopo il discorso di Boris Johnson la comunità italiana o diciamo le persone che mi hanno contattato, le persone che conosco di persona, ovviamente sono entrate in uno stato di allarme e di ansia. Una prima risposta è stata quella che molti vorrebbero ritornare in Italia, ovviamente al tempo stesso molti altri, come nel mio caso, invece preferiscono rimanere qui nonostante l'allarme, perché non vogliamo mettere ovviamente i nostri genitori, amici e cari e tutte le altre persone in uno stato diciamo di altro tipo di allarme. E siamo ovviamente delusi dal discorso di Boris Johnson, siamo delusi anche da... O perlomeno parlo per me, sono deluso anche da Nicola Sturgeon, che in realtà sta seguendo la linea del governo britannico. In primis voglio dire, testimoniare il fatto che io lavoro all'università, l'università ha sospeso attività didattiche solo a partire da oggi, sono comunque in ufficio, aspettiamo diciamo disposizioni a riguardo. Le scuole purtroppo sono ancora aperte, alcune sono state chiuse semplicemente perché hanno riscontrato

stata troppo lunga. Vedo assolutamente il lato, diciamo, della quarantena totale, vedo anche che i ragionamenti, diciamo, del governo britannico nel cercare di allungare la crisi il più possibile, tenendola più lunga e meno grave nel tempo e prendendo in considerazione la psicologia comportamentale delle persone e gli sforzi, i sacrifici che verranno richiesti da persone nell'arco dei prossimi mesi. È anche un approccio che posso apprezzare, sicuramente a discapito effettivamente delle persone più vulnerabili che non stanno venendo proprio protette, diciamo, come sarebbero protette da una quarantena totale. Sì, vedremo come proseguono le cose. Per il momento noi ci stiamo preparando senza comprare molte cose, ma magari comprando qualcosina in più ogni volta che facciamo la spesa, mettendo da parte un po' di soldi, cercando di prepararci all'eventualità di una quarantena anche qui, del lockdown anche in Gran Bretagna. Ciao, grazie. Piccolo problema tecnico sul secondo audio inviato, sicuramente lo riproporrò in seguito. Complessa, molto molto complessa. Rimanendo sempre sullo stesso tema, si parla di sistemi sanitari e io vengo a citarvi un articolo comparso su Salute Internazionale, era inizio gennaio, e parla dell'NHS, il Sistema Nazionale Sanitario Britannico, ai tempi della Brexit. Dice: la salute degli inglesi non è buona, la speranza di vita è al palo mentre galoppano le disuguaglianze e l'ambiente ostile verso gli stranieri non aiuta. Dunque, tutto mette un po' l'accento sul fatto che durante la campagna del referendum pro o contro l'Europa tenutosi nel 2016 fu costellato da una miriade di fake news a vantaggio del Leave. Ma la balla più spregiudicata e fantasiosa e probabilmente anche la più efficace in termini di raccolta di consensi ha riguardato la sanità. Lui prima citava quella della migrazione. All'approssimarsi delle votazioni hanno cominciato a circolare per tutto il Regno Unito dei bus rossi con le fiancate ricoperte da questa frase: We send all'Unione Europea, vabbè, ok, ve lo leggo in italiano, noi mandiamo ogni settimana all'Europa 350 milioni di sterline, meglio devolverle al nostro servizio sanitario nazionale, vota Leave. E questo, c'è anche una foto a testimoniare questa faccenda. Il governo conservatore dunque si impegnava, in caso di vittoria del Leave, ad aumentare annualmente la spesa sanitaria pubblica del 14%, quando lo stesso governo, insediato nel 2010, da allora, era stato avarissimo con la sanità pubblica, in larga parte privatizzata. Solo un più 1,6% l'anno rispetto a una crescita media annuale del 3,7%. Delle persone rispetto al, in 70 anni il sistema sanitario nazionale britannico è cresciuto del 3,7%, quindi loro hanno influito per l'1,6%, quindi niente. Poi naturalmente pone l'accento sulla speranza di vita che è al palo mentre galoppano le disuguaglianze. Loro dicono fondamentalmente che secondo un articolo pubblicato sul sito del King's Fund, che cerca di spiegare il motivo del blocco della crescita della speranza di vita, a partire dal 2011, alla base di questo stallo c'è un eccesso di mortalità per Alzheimer e per malattie cardiovascolari nelle fasce d'età più avanzate, complici fattori di rischio come l'obesità e il diabete. L'articolo mette in relazione questa tendenza con le politiche di austerità seguite dalla crisi finanziaria del 2008 che, con il blocco della spesa pubblica, hanno duramente penalizzato il sistema sanitario e i servizi sociali. Il documento Health Profile to England for England dedica ampio spazio alle disuguaglianze nella salute, che, al pari delle disuguaglianze economiche, sono notevolmente cresciute negli ultimi anni. Negli uomini, tra i soggetti più ricchi e quelli più poveri, c'è una differenza nella speranza di vita alla nascita di 9,3 anni. Quindi i ricchi 79,6, mentre i poveri 70,3. Nelle donne un pochino meno, sono, sì, la differenza sono circa 7,3 anni. La forbice si allarga enormemente se si considera la speranza di vita in buona salute, perché qui il gap uguale per uomini e donne è di 19,1 anni. Ciò significa che in Inghilterra la vita in buona salute per le persone più povere termina mediamente a 52 anni. Quindi, insomma, lascia fa. Alti livelli di disuguaglianza si registrano anche nel campo dell'infanzia. I più poveri rispetto ai più ricchi hanno livelli doppi di incidenza di basso peso alla nascita, 3,8% contro l'1,9 e di mortalità infantile, che sono 5,9 ogni 1000 abitanti per i poveri contro 2,8 ogni 1000 per i ricchi. Sul tema della crescita delle disuguaglianze nel Regno Unito è intervenuto Michael Marmot: le disuguaglianze possono essere più grandi o più piccole. Il quadro può cambiare molto rapidamente e non è inevitabile che queste siano così grandi come adesso. Marmot ha aggiunto che i fluttuanti livelli di povertà dei bambini nel Regno Unito sono stati un esempio di come le politiche di governo possono fare la differenza nelle disuguaglianze della salute. E via discorrendo. È un lungo articolo. La situazione non è buona neanche per la sanità, scrive al riguardo The Guardian in un articolo di metà dicembre. In tempi di attesa per accedere al pronto soccorso, alla chirurgia di elezione e alle cure oncologiche sono così peggiorati negli ultimi anni al punto da mettere a rischio di rottura la rete di protezione del sistema sanitario nazionale. I ritardi sono i peggiori da quando sono iniziate le registrazioni. I milioni di persone colpite da tempi di attesa sempre più lunghi stanno diventando probabilmente il problema più grande per Boris Johnson. Già, Boris Johnson, il vincitore indiscusso delle decisive elezioni politiche del 10 dicembre nella campagna elettorale, non si è risparmiato di mirabolanti promesse. La costruzione di 40 nuovi ospedali, l'assunzione di 50.000 infermieri, 9.000 medici. Essendo Johnson un bugiardo matricolato, ben poco di ciò che ha promesso si realizzerà. Tuttavia, come osserva Martin McKee in un recente editoriale del BMJ, il nuovo governo qualcosa dovrà pur fare per il sistema sanitario nazionale. Per un motivo politico molto preciso, Boris Johnson ha vinto le elezioni strappando una marea di seggi a Labour nelle zone operaie del nord dell'Inghilterra, erigendosi a difensore del sistema sanitario nazionale. Nel gruppo parlamentare dei conservatori ora convivono i rappresentanti di quelle aree del nord che dovranno rispondere ai loro elettori sul promesso rafforzamento pubblico del sistema sanitario nazionale. I tradizionali rappresentanti dell'ala più conservatrice dei Tory, che in questi anni ha affossato il sistema sanitario nazionale a colpi di privatizzazioni. Missione molto difficile per Johnson: conciliare l'interesse delle due anime del suo partito, soprattutto dare qualche soddisfazione alla prima. Infatti le priorità del suo governo sono note. 1. Abbassamento delle tasse, dove si troveranno i soldi per il sistema sanitario nazionale. Il controllo dell'immigrazione, piatto forte della Brexit. E l'articolo si conclude con l'uscita dall'Unione Europea: la libertà di movimento dei cittadini europei verso il Regno Unito sarà soggetto a forti limitazioni per la richiesta di visti e permessi di lavoro, non certo la condizione ideale per attirare quella manodopera indispensabile per far funzionare il sistema sanitario nazionale. Ricordiamo, tra l'altro, che il sistema sanitario nazionale inglese ha circa il 14% del personale che è rappresentato da stranieri. Quello del personale qualificato e ben il 26% dello staff medico. C'è una questione più generale che rischia di rendere sempre meno attraente la meta del Regno Unito: il sentimento di ostilità verso gli stranieri che si è generato tra la popolazione ostile hostile in environment a causa di insensate campagne elettorali che hanno fatto crescere tramite fake news, paura e pregiudizi. E su queste fake news, paura e pregiudizi, forse, ecco, proprio su questo dovremmo anche un po', a partire da questo dovremmo anche un po' riflettere sulle parole pronunciate da Boris Johnson riguardo appunto alla perdita dei propri cari e all'immunità di gregge. L'immunità di gregge è una cosa che si sviluppa fondamentalmente quando c'è una grandissima popolazione che è vaccinata per un determinato agente patogeno e per un determinato agente patogeno e quindi se c'è anche una sola persona che non è vaccinata è comunque immune perché tutti gli altri lo sono. Questa è l'immunità di gregge. Ma non ci fermiamo alla Gran Bretagna, facciamo un salto anche negli Stati Uniti, sempre, questo è un articolo che è uscito oggi, il 16 marzo, circa 8 minuti fa, se non mi sbaglio, da pochissimo, e sempre su Salute Internazionale, e è un articolo di Marzia Ravazzini. Parla dello stato d'emergenza negli Stati Uniti. Prima e dopo lo stato d'emergenza per il Covid-19. Qui non è ancora un lockdown, ma inevitabilmente anche gli americani si devono preparare a restare a casa e l'hashtag stay home è già attivo. Prima, divide l'articolo in due, prima e dopo il 13 di marzo. È il 31 gennaio quando Donald Trump decide la sospensione degli ingressi dalla Cina per tutti i cittadini non americani. Per lunghe settimane questa sarà l'unica misura adottata dagli Stati Uniti per contenere la diffusione del contagio. Vi ricorda qualcosa Cina, eh? Stop, chiusura delle frontiere, ma forse un po' di retorica. Comunque, malgrado ciò, il presidente Trump mantiene la propria posizione, rivendica come un successo il blocco degli arrivi dalla Cina, sotto il peso di critiche crescenti e crescente pressione a fine febbraio, ben quattro settimane dopo, crea la task force contro il Covid-19 affidandone la guida al vicepresidente Mike Pence, questo era il 26 di febbraio. Impone controlli sanitari per chi è in arrivo dall'Italia, Corea del Sud e Iran, questo era il 29 febbraio. Tre giorni dopo, la prima vittima confermata negli USA, ma Trump continua a sostenere la sua posizione minimizzando il rischio coronavirus. Rilascia ripetutamente dichiarazioni prive di riscontro scientifico. Il Washington Post documenta le 19 volte in cui il presidente degli Stati Uniti ha lasciato dichiarazioni al riguardo. Arriva persino a negare l'evidenza del contagio e, come spesso accade, su questioni di politica interna cerca un colpevole esterno alla sua amministrazione. In questo caso dapprima i democratici e poi paesi da attaccare come la Cina, l'Europa, a eccezione del Regno Unito, quindi definendosi un foreign virus. In questa fase i repubblicani mantengono un profilo basso, seguendo le indicazioni del loro presidente, mentre l'emittente Fox News, amica di Trump, amplifica il messaggio del presidente minimizzando i rischi. I democratici invece sono nel pieno della sfida delle elezioni primarie. Il virus quindi arriva a lambire la campagna elettorale. La situazione peggiora, i casi si moltiplicano, ma i test a disposizione restano pochi, anzi pochissimi. La percezione è che l'andamento non sia reale, bensì sottostimato. L'informazione resta confusa. A posteriori è possibile ricostruire le tappe di una gestione inefficace e caotica attraverso qualche punto, ed attraverso almeno 4 punti. 1. Gli Stati Uniti rifiutano il test offerto dall'OMS. Poi, l'autorità federale sanitaria, CDC, Centers for Disease Control and Prevention, commette un errore nella prima elaborazione del test, dove uno dei tre reagenti non funziona e ne ha quindi impedito l'utilizzo. Il FDA, Food Drug Administration, utilizza criteri che limitano l'accesso al test solo per chi ha avuto contatti diretti con i contagiati e nega l'autorizzazione a sviluppare e usare test da parte dei laboratori pubblici dei singoli stati. Infine, per settimane il numero di test effettuato resta di gran lunga inferiore a Cina, Italia, Corea del Sud, con poco più di 10.000 tamponi fino al 12 marzo. Quindi non solo la risposta è inadeguata, ma mancano gli strumenti. Basta guardare indietro, in particolare al 2018, quando l'amministrazione Trump taglia dell'80% la prevenzione per gli eventuali global disease outbreak, eventuali epidemie di salute globale, riducendo il livello della prontezza del sistema. Ancora, sempre nel 2018, cancella il team per la Pandemic Response all'interno della National Security Council, il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, che è un organismo che aiuta il presidente nelle questioni di politica internazionale e sulle questioni di sicurezza. Viene eliminata l'unità che si occupa delle risposte a pandemie, presieduta dall'ammiraglio Tim Zimmer, in qualità di Senior Director of Global Health Security. Questi tagli non possono che apparire come una precisa scelta politica della Casa Bianca per ridurre risorse e personale destinati a questo tema. Si assiste però a una reazione interessante. Dai tempi dei padri fondatori, gli Stati Uniti, gli stati hanno autonomia in termini sanitari rispetto alle autorità federali e alcuni di loro avviano azioni di contrasto. La Florida, guidata da un governatore repubblicano, è uno dei primi stati a dichiarare l'emergenza, seguito da decine di altri. Quindi il The Atlantic scrive: il re è nudo, in una spietata analisi di quello che considera il punto di non ritorno di Trump, ma che qualcosa non abbia funzionato è ormai evidente persino agli scienziati della stessa amministrazione Trump. Anthony Fauci fa parte della task force per il coronavirus della Casa Bianca, è il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Disease, malattie infettive del NHI, uno dei massimi esperti negli USA e riconosciuto come tale. Davanti al Congresso, in una disposizione sotto giuramento, non può far altro che dichiarare che il sistema dei test negli Stati Uniti non è pronto come invece dovrebbe, sarebbe necessario ora. Questo è un fallimento, dobbiamo ammetterlo dopo. Quindi tutto quello che è successo dopo il 13 marzo, che è il giorno in cui è arrivata la dichiarazione dello stato di emergenza. Trump ha proclamato dal giardino delle rose della Casa Bianca, affiancato dagli esperti della task force, secondo cui il rischio di diffusione del coronavirus resta comunque low, basso. Per la prima volta comunque vengono annunciati un piano di azioni e misure concrete. Lo sblocco di fondi federali fino a 50 miliardi di dollari messi a disposizione dai singoli stati e autorità locali, la rimozione di vincoli normativi per facilitare i piani d'emergenza degli ospedali locali e l'annuncio di avvio di screening di ampio raggio con disponibilità di nuove tesi, di un nuovo test rapido che, dopo l'accordo siglato tra la FDA, la Food and Drug, e la multinazionale svizzera Roche Holding, definito come nuovo sforzo per estendere la capacità di diagnosi. Secondo Trump è essenziale la sinergia con i privati nella gestione della crisi. Queste sono le promesse di Trump, secondo cui si potrebbe arrivare fino a 5 milioni di test nelle prossime settimane. Prima della Casa Bianca si era comunque mosso il congresso stanziando un primo intervento di emergenza di 8,3 miliardi di dollari, approvato con voto quasi unanime da democratici e repubblicani. Pur non avendo ancora approvato al Senato a maggioranza repubblicana, questo pacchetto di aiuti economici prevede anche misure sociali fortemente caldeggiate dai democratici, come ad esempio congedo malattia, congedi di disoccupazione ed assistenza. Sarà mica che queste... Il giorno precedente, infatti, l'America si era risvegliata sbigottita e in parte chiusa, come se all'improvviso si fosse resa conto dell'emergenza. Dal punto di vista politico, dunque, la data di ieri, di qualche giorno fa, 13 marzo 2020, è uno spartiacque nella gestione della pandemia. E quindi ancora qui, anche negli Stati Uniti, possiamo vedere un po' dei meccanismi che abbiamo ritrovato in tutti i paesi che sono stati colpiti da questa pandemia, visto che anche in Italia ci siamo svegliati un po' tardi. E io forse vi manderei un pezzo, eh? Parlo troppo? Fatemelo sapere. Turn that rainbow face parlo troppo e allora mando i Nacho Nacho. Sì, forse parlo troppo, ma una cosa ve la devo dire. Eh sì, perché, detto fatto, stavo parlando all'inizio della diretta, stavo dicendo che la punta.org era KO, ma invece mi devo ricredere perché mi è arrivato un messaggino che dice la punta è di nuovo su, ed in effetti è proprio così. Andate tutti e tutte subito a vedere su lapunta.org. Ha cambiato stile, direi che è anche più figa di prima, ma sì, ma che bravi i nostri smanettoni. Ecco, fra l'altro, se andate sopra, vedete il nuovo, come si dice, il nuovo, la nuova livrea. Nuova livrea che prevede un calendario doppio, marzo-aprile, e che inoltre c'è anche un fantastico link con su scritto Radio Wombat diretta speciale lunedì 16 marzo. Ma tornando a noi, sempre sulla questione Covid-19, abbiamo accennato a inizio puntata che sul lavoro, per i lavoratori, la questione non è per niente semplice. Ci sono tanti lavori, quelli ritenuti essenziali, che continuano ad andare avanti. Insomma, l'Italia si sta a casa, ma l'Italia non è chiusa. Le chiusure interessano principalmente il settore terziario. Io una cosa, fra l'altro, la vorrei dire, e questa la vorrei dire direttamente a Dario Nardella. Caro Nardella, ma te che ci hai provato? Ci hai provato, ma di brutto, negli ultimi anni, a chiudere i negozietti alimentari dei bengalesi in centro. Voglio vedere ora che cosa ne pensi, visto che sono praticamente le uniche attività che sono rimaste aperte, sono quelle attività che riescono a fornire qualsiasi genere alimentare alle persone. Voglio proprio vedere. Rispondici dalla quarantena. Ah, comunque la quarantena di Nardella, a proposito, Nardella l'ha infranta, è andato a attaccare uno striscione a Palazzo Vecchio. Cazzone. No, vabbè, Dario, dai, non ti offendere così, Dai, lo sai, ti si vuole un sacco di bene, sei un compagno alla fine, su. Un'altra cosa mi veniva in mente in questi giorni, smanettando su Radio Wombat, è un po'... E poi anche la domanda è una, ma la risposta è una, è anche molto semplice. Ma tutti sti digossini che solitamente devono stare a giro a controllare, cosa staranno facendo adesso, visto che tutti gli spazi sociali, tutti i cortei, tutte le manifestazioni non ci sono? Cosa fanno? Scriveteci su queste robe, suggerimenti, io una risposta ce l'ho, ma voglio sentire le vostre. Posta Wombat @insiberia.net. Yeah. bene, bando alle ciance, vi mando l'intervento dei riders bolognesi, perché i riders sono una delle categorie fortemente esposta al rischio in questo periodo. Non si sono fermate le consegne, oltre a tutti i problemi che già prima c'erano nel lavoro dei rider, tutti i problemi nella sicurezza, soprattutto per il fatto che vanno a giro in strada con le biciclette. Tendenzialmente è un tipo di lavoro che mira a sfruttarli il più possibile, e quindi giustamente in questi giorni sono ancora più incazzati di prima, e sentiamo il perché direttamente dalle loro voci. Eccole. Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Io mi chiamo Mattia, vivo a Torino, ma come forse potete sentire anche dal mio accento, sono un emigrato fiorentino. E vivo qui da qualche mese per mantenermi, lavoro come rider, come ciclofattorino per diverse aziende. Ho lavorato prima con Deliveroo e ora con Just Eat. E mi scuso intanto per la bassa qualità dell'audio, ma facciamo quel che si può. Allora, la situazione qui a Torino, da quando è partita questa epidemia di coronavirus, ma soprattutto da quando sono state prese le misure straordinarie dal governo Conte, che hanno imposto la chiusura di tutte le attività non essenziali per noi rider, sono abbastanza paradossali. Come forse sapete, nonostante i ristoranti siano chiusi, ciò non impedisce a chi vuole di poter continuare a preparare cibi, però destinati esclusivamente alla consegna a domicilio. Per cui il servizio delle aziende food delivery non è sospeso, ma anzi continua a funzionare quasi a dei volumi più grossi rispetto a quelli di prima, poiché molte persone, non volendo o non potendo uscire di casa e comunque non volendo rinunciare a mangiare il cibo precucinato da altre persone, comunque continuano a usare il servizio. Questo ha portato a una situazione abbastanza paradossale, perché il fatto che molti ristoranti abbiano chiuso del tutto, poiché probabilmente non si potevano permettere di rimanere aperti solo per gestire il servizio di consegna a domicilio, ha causato un accavallamento degli ordini abbastanza importante, che ha avuto delle ricadute sul lavoro del rider e sulla sicurezza, in questo caso sanitaria, del nostro lavoro. Infatti nei ristoranti che rimangono aperti, che sono molto pochi rispetto a quelli che sono aperti di solito, si vengono a creare degli assembramenti molto importanti, delle code di rider molto importanti, di persone che stanno ad aspettare che il loro ordine venga preparato. Se a questo aggiungiamo che ad oggi le aziende non hanno fatto niente per garantire la sicurezza sanitaria dei rider che continuano a lavorare, cioè non hanno fornito né mascherine, né disinfettante, né guanti in lattice per svolgere le consegne, ma tutto quel che hanno fatto è stato mandare una mail dove consigliavano delle prescrizioni che poi però sarebbero ricadute totalmente sulle spalle del rider, senza quindi fornire un supporto materiale perché queste cose fossero effettivamente fatte. E capiamo che la salute di chi svolge questo lavoro in questo momento particolare è particolarmente a rischio. E poiché si va a fare le code in posti dove anche volendo non sarebbe possibile rispettare tutte le prescrizioni sanitarie. Cioè, nonostante molte persone ovviamente scelgono di continuare a fare questo lavoro, nonostante questo sia un rischio per la propria sicurezza, perché essendo noi una categoria particolarmente poco tutelata, non avendo contratti di subordinazione, ma essendo praticamente tutti collaboratori occasionali e quindi figurando come lavoratori autonomi, non abbiamo nessun sostegno al reddito per periodi di mutua o di infortunio, per cui se scegliessimo di rimanere a casa e di non lavorare, non avremo entrate in questo periodo, e visto che tanti, tantissimi rider hanno questo lavoro come fonte principale di guadagno, non si capisce come dovrebbero fare a mantenersi ad arrivare a fine mese. A questo aggiungiamo il fatto che pure gli aiuti che sembra che il governo darà ai lavoratori autonomi non avranno alcun valore se le aziende continueranno a non sospendere il servizio e quindi noi non avremo accesso al sostegno al reddito che il governo promette ai lavoratori autonomi. Noi è da più di una settimana ormai, da quando è iniziata questa situazione, che sulla nostra pagina Facebook, Deliverance Project, denunciamo queste incongruenze e questo rischio per la salute non solo di noi lavoratori, ma ovviamente di tutte le persone con cui i rider vengono a contatto, quindi clienti in primis, ma anche commessi dei ristoranti, eccetera, eccetera. Nonostante tutto, sembra che da queste orecchie non ci senta nessuno e il governo non ha ancora preso la decisione di sospendere il servizio di consegna a domicilio, e pensiamo che a questo punto sia molto difficile che la prenda adesso, però questa è la nostra richiesta, è la nostra posizione in quanto assemblea di lavoratori, che il servizio sia sospeso immediatamente per poter garantire la sicurezza di tutti, dei lavoratori, ma altresì di tutti gli altri, di tutta la popolazione, perché sappiamo bene che queste misure hanno senso solo se sono rispettate da tutti, ma basta una piccola categoria di persone che non può rispettarle per renderle totalmente vane. E chiediamo che con la sospensione del servizio ci sia anche la garanzia che a tutti i rider sia corrisposto un aiuto al reddito, un reddito di quarantena, indennizzo, come vogliamo chiamarlo, però sostanzialmente un sostegno per poter superare questi mesi di mancato introito dovuto all'assenza di lavoro. Abbiamo anche in preparazione una lettera aperta da indirizzare alle varie autorità, ai vari rappresentanti delle istituzioni locali, per sperare che ci ascoltino da questo punto di vista, e visto che noi lavoratori in primis siamo quelli più consapevoli e coscienti di tutti i rischi che il nostro lavoro comporta in questa situazione. Speriamo che non facciano orecchie da mercante e che per una volta la salute dei cittadini, di tutti noi, sia messa davanti ai guadagni individuali e privati delle aziende, delle grandi multinazionali di food delivery. Spero di essere stato abbastanza chiaro e un abbraccio virtuale a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Da Torino è tutto. That we lack it when we spend.

l'anniversario un anno dalla sua morte, dalla sua uccisione sul campo di battaglia. Infatti è una giornata importante per tutta l'Italia, ma in particolare per Firenze. Era una persona nata e cresciuta a Rifredi, un quartiere operaio. Si può dire il quartiere operaio nella zona nord-ovest di Firenze. Era in programma un grande evento presso l'Auditorium Flog, ma questo evento naturalmente è stato rimandato e quindi non potendo svolgersi fisicamente, si svolgerà nell'etere proprio sulle frequenze di Radio Wombat mercoledì, quindi fra due giorni, dalle 19 almeno fino alle 21 andremo avanti con una diretta speciale con un sacco di contributi per ricordare, insomma, per tenere a mente l'operato e i pensieri di Orso, Lorenzo Orsetti, morto sul campo di battaglia per combattere l'ISIS. Bene, che dire, non abbiamo mica finito. Voi pensate, è già diverso, sono più di due ore che sono in diretta, sono un po' stanco, ma non vi lascio perché ancora abbiamo tante cose da dire. In particolare abbiamo pensato di sentire, di chiedere a un avvocato, a un giurista milanese qualcosa di più, qualche dettaglio tecnico sulla questione della sorveglianza speciale, e allora ve lo faccio sentire. O forse no, aspetto ancora un po', dai. Ne approfitto per salutare una persona che non vedo da un sacco di tempo. Ciao Emanuele, e che ci sta ascoltando. Un saluto particolare a uno dei ragazzi più belli che io abbia mai incontrato. Tanto bello quanto inutile. L'argomento è serio, non dovrei dilungarmi in queste cazzate, giustamente. Vi mando l'intervista all'avvocato Mazzali di Milano. Siamo al telefono con Mirko Mazzali, avvocato. Buonasera milanese, si occupa spesso di attivisti. In questo caso noi lo chiamiamo per avere un po' una panoramica su quello che è la sorveglianza speciale, che tra l'altro la Corte di Torino dovrebbe esprimersi oggi o comunque in questi giorni riguardo ai tre internazionalisti che hanno combattuto in Kurdistan. Quindi che cos'è e in che cosa consiste innanzitutto questa sorveglianza speciale? Ma la gravità di questa richiesta, c'è ancora un provvedimento, tutti noi ci auguriamo che verrà respinta, e che parte da un presupposto di pericolosità, cioè si può applicare la sorveglianza speciale per chi viene ritenuto pericoloso in qualche misura per l'ordine pubblico, per la sicurezza. È un provvedimento che viene applicato normalmente per i mafiosi o per i pluripregiudicati, quindi questo già fa capire in qualche maniera l'assurdità di questo procedimento. Può essere modulata, tendenzialmente è una forma di controllo della libertà di movimento del soggetto, che può essere obbligato, solitamente obbligato, a non uscire la sera, a non allontanarsi dalla provincia o dalla regione di residenza, a non giudicare, a manifestazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Capite, come dire, che sulla base della commissione di nessun tipo di reato, perché non viene contestato nessun tipo di reato e non c'è stata nessuna condanna, a questo momento si tratta di un provvedimento da un certo punto di vista pericoloso, ma anche assurdo. Ecco, ma visto che non c'è alcun reato, a che cosa si appellano loro per definire questa pericolosità? Ci deve essere, io adesso non sono l'avvocato, quindi so quello che ho letto da qualche parte, evidentemente c'è una relazione di qualche organo, probabilmente della Digos o del Wigos, non ho idea, che fa riferimento all'attività che loro hanno svolto, quello che loro hanno svolto in questi ultimi mesi quando erano all'estero. Quello che loro hanno svolto o non svolto, rispetto al quale un accertamento giudiziario non c'è stato, quindi stiamo parlando solo di cose affermate, come questo possa ritenere che aver fatto determinate cose in un paese estero possa essere pericoloso per l'Italia, risulta in qualche misura incomprensibile, anche perché l'attività, sono un concesso che l'abbiano fatto, che è stata svolta all'estero, non era in contrasto con, cioè il combattere l'ISIS era, faceva parte anche in qualche misura della politica estera dell'Italia, insomma non è che erano dell'ISIS, in qualche misura uno può pensare che essendo dell'ISIS in Italia possono fare attentati eccetera eccetera eccetera. Infatti qualche procedimento, da quello che ho appreso sempre per fonti giornalistiche o giudiziarie, è avvenuto nei confronti di chi aveva operato all'interno dell'ISIS e quindi rientrato in Italia. Evidentemente qui c'è un problema di pericolosità insito, forse poi va visto rispetto a, come dire, all'ideologia, al modus operandi, quantomeno all'estero, di questi soggetti. Così sembra in qualche misura un non senso. Ecco, ma come funziona esattamente? Perché queste persone non sono state denunciate, quindi... C'è una richiesta della Procura di Torino, della Procura della Repubblica, che chiede l'applicazione di una misura di sicurezza, e ci deve essere un tribunale, in questo caso la Corte d'Appello, che ne valuta la fondatezza. C'è stata un'udienza, ci sono stati evidentemente gli avvocati che sono molto in gamba, tra l'altro i colleghi di Torino che hanno prenotato le memorie, e valutano se questo concetto di pericolosità, che è quello fondamentale, perché se uno non è ritenuto socialmente pericoloso evidentemente non gli si può applicare una misura di sicurezza. In realtà il dilemma è questo, cioè la condotta fatta, contestata all'estero ai tre soggetti sotto processo, così chiamiamolo tra virgolette, è un'attività che può essere ritenuta pericolosa per lo Stato italiano o no? È qui un po' che si gioca dal punto di vista giuridico il procedimento più che processo. Ecco, da dove arriva questa parte, insomma, questa sorveglianza speciale? C'è una parte del diritto particolare che la regola? Sì, modificata viene dal codice Rocco, insomma, poi modificata era all'inizio, era fatta per gli oppositori politici, poi in qualche misura è stata poco utilizzata nel corso degli anni da questo punto di vista, è stata rimodulata per i mafiosi, soprattutto per coloro che appartengono alla criminalità organizzata, che pure hanno un curriculum, come dire, tra virgolette, delinquenziale di un certo livello. Ecco, quindi non ci sono dei precedenti specifici su persone. Sì, c'è qui a Milano, devo dire, negli ultimi 30 anni, da quando io faccio questo tipo di processi, ci si è fermati quasi sempre all'avviso orale, che è una forma prodromica di questa attività qui. Forse ci sarà stato uno o due casi, se non ricordo male, però potrei sbagliarmi, negli ultimi 30 anni, ma credo che in Italia non sia mai stata tentata una cosa così, perché evidentemente, come dire, rispetto a manifestanti politici va a limitare il diritto costituzionale di pensiero, insomma c'è tutta una serie di problematiche costituzionali anche. Ecco. E di fatto poi il controllo della persona, una volta messa sotto sorveglianza, attraverso quali strumenti viene messo in atto? Se applicano il fatto di non poter uscire la sera, possono andare, come un po' l'affidamento in po' al servizio sociale, possono andare in casa a accertarsi che ci sono. C'è la presenza di un libretto rosso, se non ho sentito dire. Sì, c'è la presenza, adesso non ricordo se è rosso, non saprei se è rosso, che devono sempre portarsi dietro per mostrare in caso di controllo alle forze dell'ordine. Sì, non sapevo che fosse rosso, è anche un po', come dire, vagamente ironico, potrebbe sembrare vagamente, diciamo. Ok, va bene. Comunque il tribunale si dovrebbe pronunciare, aveva dato 3 mesi, ora i 3 mesi scadevano per l'appunto oggi, non ce l'ha a Credo, ma breve. c'è una situazione un po' delicata anche lì. Mi sembra che sia tutto bloccato anche a Torino, non so se lo faranno, infatti, vediamo. Tutto bloccato anche a Torino. Avremo modo di riaggiornarci sicuramente sulla questione della sorveglianza speciale. Un occhio speciale a questo tema, visto che riguarda tutti e tutte. Dunque, sono le 20:33, oggi è lunedì 16. E questo è Bricobaldo all'ascolto. Ancora una volta vi ricordo i contatti, postawombat@insiberia.net, oppure potete mandare un messaggino a Bricobaldo, ma il numero non ve lo dico. Direi che forse potrei mandarvi un pezzaccio e così un po' chiudiamo questo tema. Ripartiamo fra un po', vediamo, eh. Ancora non ho bene in mente che cosa fare. Comunque, intanto. Intanto vi beccate i College Electric Youth. Thank you. Eccomi qua, non sono andato via, non vi preoccupate, resterò ancora per una ventina di minuti a farvi compagnia e vi raccomando, una volta passati questi 20 minuti, non disconnettetevi da Posta Wombat, scusate, sono stanco, non disconnettetevi da Radio Wombat perché vi sarà una puntata speciale di Coccoli al Silicio, la trasmissione degli smanettoni fiorentini. Una puntata speciale e anche virale, si parlerà di virus informatici e quindi siamo perfettamente a tema, sì. Torniamo sul tema coronavirus, abbiamo i suggerimenti di Internazionale, le regole, restate a casa. Ora che non ha più senso la tua nuova missione, ora che non hai più scuse, la tua nuova missione sono le pulizie di primavera. Numero 2. Leggi i libri nell'ordine con cui li hai impilati sul comodino nel corso dei mesi o degli anni. Tre, esplora i tutorial di cucina su YouTube per stupire i tuoi ospiti quando potrai di nuovo invitarli a cena. Numero 4, se vuoi emozioni forti, lascia stare Scarabeo o Monopoli e concentrati su Risico. E infine, se cerchi una serie che duri abbastanza a lungo per coprire l'emergenza, Grey's Anatomy ha 358 episodi ed è anche perfettamente a tema. C'è un altro consiglio che ci arriva da un ascoltatore per superare, scusate la tosse, per superare indenne questa quarantena, se siete costretti a lavorare, mi raccomando, non fate i fisioterapisti, altrimenti vi tocca ciancicare di continuo pazienti. Toccarli, toccicciarli dappertutto, anche se con fare professionale. Però questo è abbastanza sconsigliato ai giorni d'oggi. Però, intanto per sullazzarvi, qualcosina ce l'ho. Perché? Perché all'interno di questa crisi sanitaria del coronavirus vi è stato anche spazio per gli scontri diplomatici. Gli scontri diplomatici esattamente fra Italia e Francia. Aspettate perché mi è saltato la pagina che avevo scelto. Ecco, allora, Francia, questo sto leggendo un articolo di Repubblica che è uscito, era il 3 marzo del 2020 e si fa così, dice così: Francia ha rimosso il video sulla pizza al coronavirus, le scuse di Canal+. La clip satirica che ha suscitato un'ondata bipartisan di proteste. Di Maio dice: esigiamo rispetto! La misura per la ministra per le politiche agricole Bellanova, attivare i canali diplomatici. Meloni subito, disgustoso, il deputato democratico Fiano, irricevibile, e col diretti dice: Francia pugnala il Made in Italy alle spalle. Mentre i pubblicitari e i creativi italiani e internazionali sono addirittura sbigottiti. Pensate voi. Lo volete sentire il post di Giorgia Meloni? Dice così: video satirico disgustoso mandato in onda dalla famosa TV francese Canal+, per insinuare che i prodotti made in Italy sono contaminati dal coronavirus. Disprezzo per gli autori di questo immondizia anti-italiana. Il governo PD e il Movimento 5 Stelle avrà la decenza di far sentire proprio sdegno. Ma il nostro prontissimo ministro degli esteri naturalmente non può mancare. La risposta di Maio ha attivato ambasciata a Parigi. Questa è l'anteprima di un video diffuso da una TV francese che considero di dubbio gusto e inaccettabile. Comprendo la satira e capisco tutto, ma prendersi gioco degli italiani in questo modo, con l'emergenza del coronavirus che stiamo affrontando, è profondamente irrispettoso. Come ministro degli esteri abbiamo immediatamente attivato la nostra ambasciata di Parigi. Ma ti immagini. Bellanova, volete sentire Bellanova cosa dice? Raccapricciante. Il video è andato in onda in Francia durante una trasmissione di Canal Più, è vergognoso e raccapricciante, attacca su Facebook Teresa Bellanova. Davanti al momento di crisi e difficoltà che non solo il nostro paese ma l'Europa intera sta affrontando, aggiunge, media e televisione dovrebbero informare i cittadini raccontando la verità. Vabbè. Basterebbe quello, invece si sceglie di denigrare un intero paese. Questa non è satira, è un'offesa a un'intera nazione, è un'evidente mistificazione dei fatti, è il populismo fatto immagine. Si mandano in onda fake news per diffondere paura, dividere, creare barriere, ma anche legittimare la concorrenza sleale. Si sa, i francesi con la satira ci sanno fare, ma non siamo da meno noi toscani. E soprattutto mi preme citarvi. Intanto andate a dare un'occhiata, è uscito un video sui social, è stato poi anche ripostato da il Tirreno, di quei fenomeni dei livornesi, che in quanto a fantasia e a satira veramente sono imbattibili. Hanno organizzato una tombola all'interno, in un cortile di un condominio, di vari condomini, hanno organizzato questa tombola con i megafoni, è bellissima, andate a vedere. Però appunto i livornesi, si parlava di satira, come non citare l'ultima prima pagina del Bernacoliere. E io non sono molto bravo a fare le imitazioni, quindi ve lo farò un po' così com'è. Psiosi coronavirus, cinese con l'uccello a fuori, operato d'urgenza, ma son bastate due seghe fatte bene, l'infermiera però ha voluto guanti. Dai, Giorgia, prendetela anche un po' col Vernacoliere, scusa, Dai, segui un po' la tendenza di Salvini. E a proposito di Salvini, sempre una prima pagina del Vernacoliere diceva così: altro che il cuore e Maulao di Maria, la Madonna scrive al Vernacoliere, per favore mandai Salvini a fanculo per me, io le parolacce non ne posso dire. C'è un ascoltatore che solleva la questione delle mascherine rubate agli italiani. Boh, mi dice, ne sapete qualcosa? Sì, ho sentito dire, non mi sono informato bene, però insomma dai, queste mascherine, che coglioni. Non l'avete ancora capito che queste mascherine sono tutta una questione di scena? Le mascherine risolvono ben poco, a meno che tu non sia contagiato. Ci sono alcuni tipi di mascherine che possono un po' ridurre la trasmissione, però non è una misura sicura al 100%. Comunque, riguardo alle mascherine, quello che possiamo dire è che mancano, questo sì è vero, mancano effettivamente, ma c'è anche chi si sta attrezzando per farle, ad esempio a San Frediano. Parlavamo qualche giorno fa con degli attivisti di Via del Leone. Ci sono diverse persone che si sono attivati per fabbricarle, per cucirle, perché vi era la necessità di distribuirle a, soprattutto agli abitanti della piazza. Qui qualcuno dice: il pezzo che hai messo prima, Human Being, è tratto da uno dei miei film preferiti. Oh, grazie, mi fa molto molto piacere. E invece altre persone mi dicono che c'è gente che voleva essere chiamata e che invece è andata a letto. Mi dispiace, c'è chi va a letto presto con questo coronavirus. Io direi che vi mando un altro pezzaccio. Blue Blood Blues, The Dead Weather. Londra chiama, dicono i Clash, noi ci avviamo alla chiusura, ma mi prometto, insomma, propongo una nuova rubrica su Radio Wombat dal titolo Ha fatto anche cose buone. In questo caso si parla comunque, sempre comunque, di coronavirus e da qui inizia le cose buone che ha fatto il coronavirus. Io ne posso dire qualcheduna, aspetto grandi suggerimenti da voi, scrivete a postawombat@insieme.net una mail con il titolo Ha fatto anche cose buone. Io ne ho qualcheduna, una, a Firenze. A Firenze non ci sono più i turisti, sembrava una cosa impossibile da raggiungere, invece ci siamo riusciti. Non c'è più turisti, incredibile, mai vista Firenze così. Inoltre io non abito più in città, abito nei Colli e devo dire che il silenzio che emana la città in questi giorni è assolutamente inconsueto. Non solo non c'è più rumore, ma non c'è neanche più, è sparita anche buona parte della cappa che solitamente durante l'arco dell'anno la avvolge. Altra cosa buona, il sindaco in quarantena. Questo non vuol dire che sta zitto, che stia zitto, perché comunque è sempre lì su Facebook a fracassare i maroni, ma intanto non è per le piazze, dai, se ne sta a casa in quarantena zitto. Inoltre ha fatto anche cose buone perché ha contagiato il premier brasiliano Bolsonaro. Secondo me ha contagiato anche Trump. No, lo butto lì così, Cioè, alla fine erano a fare a ciancinarsi insieme qualche giorno prima, c'era anche lo staff di Bolsonaro. Risultato positivo. Donald Trump invece ha annunciato che no, lui è negativo, ma secondo me bugia. No, a parte gli scherzi, si può... Vabbè, niente, questa qui è la nuova rubrica, ma una cosa si può dire, sì, la città è molto meno inquinata, forse davvero questo ci aiuterà un pochino a rendersi conto che andare in macchina, produrre, tutte queste cose obsolete, forse potremmo tranquillamente farne a meno. È chiaro, è una situazione eccezionale, siamo costretti a non fare cose, però magari potremmo con questo renderci conto che le cose essenziali sono poche. Un rischio è sempre quello, si parlava, no, del sabato si parlava un po' della paura dilagante, dei cambiamenti che comporteranno le persone. Effettivamente anch'io mi sono un po' reso conto e lo sto vedendo via via che le cose sono cambiate. Non ci si saluta più, non ci si tocca più e rimaniamo distanti, diversi metri, parliamo a distanza. Io spero che questo non rimanga indelebile nella mente, nella memoria delle persone. Spero che una volta finita questa emergenza si possa tornare ad abbracciarci senza avere paranoia. Un ascoltatore mi fa notare che tutto questo dovrebbe farci riflettere su quanto noi influiamo sul clima. Sì, io aggiungo anche che i problemi sono sempre contestuali, va bene, o almeno la percezione dei problemi sono sempre legati al contesto nel quale viviamo, e è abbastanza chiaro e dimostrato che i paesi più poveri vivono con grandissima preoccupazione il surriscaldamento climatico, mentre noi ce ne catafottiamo tranquillamente.